Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Non si può pensare che tutti i partigiani fossero uguali. Il fratello di mio nonno, partigiano bianco, è stato ucciso sulle nostre colline dai suoi compagni, con una mitragliata alle spalle. Per scoprirlo, suo fratello e sua madre dovettero indagare per mesi. Scoprirono il posto dove accadde, e i contadini che li avevano ospitati e assistito al fatto fecero da testimoni al processo che avvenne dopo. Trovati i colpevoli e condannati, furono tutti liberati pochi anni dopo, con la grazia. Ora io conosco i loro figli e non porto rancore per loro. Bisogna smettere di santificare la resistenza. A ogni storia di innocenti uccisi da una parte ne corrisponde simmetricamente una dall'altra. Viva la resistenza, ma siamo obiettivi. Solo così potremo raccontare la vera storia ai nostri figli. Corrado Sassuolo. Ma quando finiremo di credere, come all'asilo, che in guerra esistano il bianco e il nero? In guerra tutti sono grigi. E come ci sono stati partigiani cattivi, ci saranno stati anche fascisti buoni e viceversa. L'Italia era spaccata. Solo un bambino dell'asilo vede tutto bianco o nero. Finalmente qualcuno che dice la verità. Bravo Spike Lee, Alessandro. Spike Lee ha detto una grande verità. Noi italiani non abbiamo risolto la guerra civile dell'inizio e della fine del fascismo. Ma lui stesso non ha risolto le ferite impresse ai neri americani dal razzismo dei bianchi. Tutta la sua opera, non solo questo film, gronda del sangue di ferite mai chiuse che il suo popolo ha ricevuto, che non ha risolto e non perdona. Questo film lui lo ha fatto per i neri americani della divisione Buffalo e non per gli italiani. Lo ha fatto per i neri americani di oggi e non per i superstiti italiani di oggi. Per il resto è un grande regista, un grande artista. Ha una cultura mediamente superiore a quella del suo popolo, ma rimane un americano. Che siano bianchi, neri, ebrei, cinesi, italiani, messicani, gli americani sono un popolo barbaro e selvaggio, senza radici e senza cultura, arroganti che vogliono dare lezioni di civiltà a tutto il mondo, dall'alto del loro esercito e dei loro dollari. E Spike Lee, appena ha ricevuto una critica giustificabilissima da chi ha sofferto, ha reagito all'americana, infilando il coltello nelle nostre piaghe. Qualunque europeo avrebbe saputo, quantomeno riconoscere, che certe ferite si sanano solo con il pentimento e il perdono, e avrebbe ricordato a chi lo accusava che lui stesso non sa perdonare i nemici che hanno inflitto tanti dolori alla sua gente. Mi auguro che gli italiani, che si considerino eredi dei partigiani, dei fascisti o semplicemente delle vittime, si guardino bene dall'andare a vedere quel film che nulla ha a che vedere con la nostra storia. Che abbia lo stesso flop di quella buffonata del mandolino del capitano Corelli. Aldo. Provo vergogna per la cattiveria di Pansa. Cosa vuole fare col suo comportamento offensivo della memoria storica? Più soldi con i suoi libri? Ha bisogno di elevare il suo narcisismo? Forse vuole redimere il fascismo, vecchio e attuale, dei suoi amici potenti come lui? Perché con la sua presunta intelligenza non si dedica a fare del vero bene per gli altri, invece di fare il finto veritiero della storia? Gli auguro di vivere abbastanza per vedere dove andrà a finire l'Italia dei suoi nuovi amici. Sergio. Volevo solo fare i miei complimenti a un uomo di sinistra vero come Pansa, uno non omologato, un uomo pulito, vero. Ho letto molti suoi libri e spero che i giovani scrittori intellettuali prendano esempio. Troppo facile fare il bocca. Troppo facile. Davide. Condivido la lettura priva di retorica che Pansa dà della Resistenza e lo stimo molto. Sicuramente tra i partigiani si annidavano anche dei delinquenti o facinorosi, oltre agli idealisti che lottavano per la democrazia. Però, secondo me, Pansa dovrebbe fare attenzione ad esprimersi in questo modo, in questi tempi di rivalutazione diffusa del fascismo. Perché così rischia di alimentare involontariamente la retorica revisionista dei nostalgici della dittatura, che trovo inaccettabile. Aldo. Gentile direttore, venerdì mattina ho sentito a Radio 24 l'intervento del signor Pansa sul film di Spike Lee. Il suddetto ha definito l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, una setta politica al servizio del PCI prima ed ora dei No Global. Vivo in Liguria, zona che alla guerra ha offerto vittime, innocenti e no, e sinceramente trovo imbarazzante quello che da parecchio tempo dice il signor Pansa. La sua analisi è settaria e non ha nessun rispetto della storia scritta col sangue di molte persone. Con mio marito, storico ed esperto del territorio, frequentiamo le manifestazioni dell'ANPI, che più che setta la vedo come un gruppo di sopravvissuti che si riunisce ad ogni ricorrenza per le celebrazioni. Celebrazioni che, peraltro, la gente e i giovani sono stanchi di sentir raccontare, perché sembrano un passato remoto. Dico sembrano perché oggi i venti di autoritarismo soffiano forti. Mio padre era un partigiano della Brigata Balilla, descritta nella trasmissione dal signor Pansa come un gruppo di teorici del crimine. Invece, dai racconti dei tanti sopravvissuti, lui, come altri, furono giovani col cuore che batteva per la libertà e la loro volontà era di liberare il paese dal giogo nazista-fascista. Mi dispiace che il cuore del signor Pansa non abbia mai catturato queste sensazioni. Forse per durezza insita, forse per una mancanza di sentimento e rispetto per chi ha dato la vita per un ideale che forse Pansa non ha mai avuto. Saluti, Stefania. La vita è una cosa meravigliosa, citando il famoso film di Frank Capra. Non si finisce mai di imparare. Oggi ho imparato un'altra cosa, che in Italia ci sono stipendifici di sinistra, cattivi, e stipendifici di destra, virtuosi, ai quali al massimo si può dare un buffetto sulla guancia. Lo stipendificio di sinistra è quello della scuola, dove insegnanti integraliste e vetero comuniste alternano assenze da pelandronite a indottrinamento a bambini della scuola elementare. C'è poi lo stipendificio senza macchia e senza peccato, come quello che ha prosperato alla Regione Sicilia. La Regione Sicilia ha 21.000 dipendenti, contro i circa 4-5.000 della Regione Lombardia, più dell'intera Finlandia. La sola città di Catania ha 4.000 dipendenti. Catania, che ha prodotto 800 milioni di euro di buco. Nessun taglio è previsto per gli organici super efficienti della città. Del resto, gli amministratori non sapevano, non volevano, non potevano. L'efficienza e la modernizzazione del paese vale solo per le maestre bolscevichiche. Mauro. Sono un dipendente pubblico, uno di quelli che cerca di fare il proprio dovere. Affermo però che, almeno nel mio ufficio, quello che si dice sui fannulloni è vero. Molti colleghi timbrano e poi vanno subito via per il caffè o altro. Durante l'orario d'ufficio, poi, c'è chi va a fare shopping, chi a svolgere altre faccende non inerenti l'ufficio. Il direttore è perfettamente consapevole di questo e una volta gli ho fatto rilevare il disservizio. C'era gente venuta in ufficio e gli addetti al servizio erano a zonzo, come spesso accade. Il direttore mi ha risposto che ognuno è responsabile di se stesso. In pratica mi ha detto che avrei dovuto farmi gli affari miei. Il ministro Brunetta non sta facendo un granché, molta propaganda, ma pochi fatti. Secondo me dovrebbero mandare più controlli a campione e allora sì che tutti tornerebbero ad avere un po' di sano timore. Sapete che in alcuni paesi le ASL sono impossibilitate a mandare le visite fiscali? I colleghi che abitano in tali paesi lo sanno e fanno giorni di malattia a iosa e poi se ne vanno in giro tranquilli. La trattenuta per i giorni di malattia non è un granché e a chi sta bene economicamente non fa né caldo né freddo. Piuttosto, come dice il proverbio, il pesce puzza sempre dalla testa. I dirigenti e i direttori sarebbero perfettamente in grado di controllare i fannulloni, ma non fanno nulla perché molte volte i fannulloni sono loro stessi. Michele. A proposito di razzismo, si è mai visto un grave episodio di razzismo nei confronti di qualche filippino? Io non ho mai avvertito aria di razzismo nei confronti di questa etnia. Penso che non ci sia nessun tipo di astio, semplicemente perché i filippini si sono distinti negli anni come persone per bene, pronte a lavorare. E lo fanno molto bene, sono puliti, simpatici e onesti. Non ho mai sentito di un filippino che spaccia droga o di una banda organizzata di filippini. Avete mai sentito di giovani filippini adolescenti che seminano il panico nel quartiere? Io no, mai. Ma allora perché in tutte le stazioni di Nord e Centro Italia si trova un nordafricano pronto a offrirti della droga? Non è forse questa una distinzione di razza? Di filippini che spacciano non ce n'è uno, ma di nordafricani è pieno. Non siamo noi italiani a distinguere le diverse etnie, sono le razze che si distinguono da sole. Non è una questione di pelle, ma solo di comportamento. Emiliano. Caro Sant'Almassi, ricordo ancora il suo bel messaggio di inizio 2008, sul quale ho molto riflettuto. Ricordo inoltre il suo annuncio del lontano 1978. Erano i terribili giorni del sequestro Moro e lei conduceva in quel periodo il TG2. Altri tempi, altri giornalisti. Lei è bravo, Sant'Almassi, se lo ricordi. Noi cittadini, ai quali spetta quotidianamente la fatica e l'onere di districarsi in un'informazione a volte non esemplare, abbiamo bisogno di gente come lei. Mi mancherà, Sant'Almassi, mi mancherà molto. Un cordiale saluto, Carlo Ferrara. Caro direttore, a margine della crisi finanziaria mondiale, mi spiega perché la Chrysler può fallire ma una banca no? Paolo Novara. Caro Paolo, guardi che qui non si tratta di far fallire una banca, ma è uno tsunami che riguarda l'intero sistema bancario, almeno negli Stati Uniti. Mi spiego, fallisse la Chrysler, questa è un'azienda che fa un prodotto fungibile, lei si compra un'altra marca, una Chevrolet, una Buick, oppure una Toyota o una Maserati. Ma nel caso di una banca, già le dissi che è dura una mattina sentirsi dire, lei normale correntista o piccolo risparmiatore, signore sa che c'è, i suoi soldi non ci sono più. Lei capisce che già questo è poco digeribile. Ma nel caso in questione, invece, della crisi che si sta vivendo anche a livello internazionale, c'è una vastità tale che non riguarda solo la singola banca, ma come si è visto proprio negli Stati Uniti, un intero sistema creditizio. Prima le banche d'affari, poi le compagnie di assicurazioni, poi quelle che erogano o riassicurano mutui, eccetera, e così a scendere. Queste istituzioni, queste industrie, chiamiamole così, non fanno automobiline, e cioè non fanno un prodotto fungibile. Una moneta, in questo caso il dollaro, non è sostituibile con un'altra moneta. Esattamente così come accadeva prima, un'auto con un'altra. La parola credito, mi piace ricordarlo qui, deriva da credere, cioè aver fiducia. Ed è questa fiducia che si deve recuperare. Comunque la ringrazio, Paolo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.